Lascia star che un giorno mio compagno del programma, il Bartoldetto, e gera Drew Chapar, e in mezzo al miglietto alto, neanche un metro, e là con la sua sapeta che il sapava, che il sapava, là è una scianta, e senti un... E gera mia, una nave spaziale, gastazionale avanti in mezzo il tocco di mangioca che gera piano, e là nella scianta Bartoldetto si affrontava ciò con la sua sapa in manga e dice: vieni fuori da lì, te sfinisci un coglio. Ciò che mi venisse fuori un extraterrestre, mi venisse fuori tutto mal fatto ciò. E il Bartoldetto si affrontava e dice: un culo, fenisci quelli. E che l'altro la bandella: extraterrestre scegando, lui che ha detto: stai un altro passo, te fenisci. Allora l'extraterrestre che ha levantato sulle mani. E allora te quella che si diceva bibit, bibit, bibit le antenete. Pian Bartoldetto che antenete se Drio confermare la ultima notizia del mondo. E lui firme la qua sapa in mancia. Perché che ha detto? È che noi altri che avevamo che antenete qua, sapevamo delle notizie da ora giusta. Acontecesto, noi altri sappiamo informare. E lui qua sapa in mancia ha detto: noi altri qua, te a terra, quei che ha su chi due cornetti lì, gli ultimi a sapere.